centri antiviolenza sono considerati dei servizi essenziali per le donne che subiscono violenza o comunque alla comunità tutta. Ecco. Magari non altrettanto vengono considerati essenziali quando si tratta di distribuire dei fondi, ecco, al cui funzionamento, insomma, il funzionamento dei centri quando dipende dai fondi pubblici non è sempre garantito perché i fondi arrivano un po' col contagocce, con grande ritardo, a volte vengono messi a bando, quindi c'è sempre qualche difficoltà. Però proprio per la visione politica che hanno i centri antiviolenza, quella di stare dalla parte delle donne e di fornire un supporto di parte essenziale, e proprio per questa mission che hanno, i centri antiviolenza da sempre si battono perché venga garantita in qualche modo col lavoro volontario, con altre forme, con le donazioni, comunque l'operatività del loro centro, differenziando le fonti di finanziamento. Per ritornare al periodo del lockdown, tutti i centri antiviolenza, sia a livello italiano che a livello emiliano-romagnolo, hanno notato un drastico calo delle nuove richieste d'aiuto, cioè donne che per la prima volta chiedevano aiuto al centro antiviolenza. Sono state di meno, soprattutto in marzo, nel periodo di lockdown più stringente. È intuitivo capire per quale motivo, visto che la violenza contro le donne, si esercita attraverso un controllo della partner, molto spesso un controllo stringente, quando si era tutti a casa, chiusi nella stessa casa, appunto, è stato difficile per le donne riuscire a ricavarsi un momento sicuro durante il quale chiamare il centro antiviolenza, farlo appunto riservatamente per non rischiare, ecco, di essere ascoltata dal maltrattante e magari avere delle ritorsioni per questo. Per questo motivo tutti i centri antiviolenza hanno cercato di migliorare l'accessibilità per essere contattate dalle donne. Quindi, per esempio, la Casa delle Donne, il mio centro di riferimento, ha attivato una linea di WhatsApp per cui le donne potevano anche chattare silenziosamente per avere informazioni importanti in quel momento. Un'altra considerazione che mi viene da fare, che abbiamo visto, che abbiamo constatato, è che durante il lockdown però non è per niente calata la richiesta di aiuto di donne in emergenza e il grosso lavoro di rete che abbiamo fatto e che si fa normalmente, che è stato e che si è continuato a fare ovviamente a maggior ragione durante il lockdown con le forze dell'ordine, gli avvocati, eccetera. Quando tutto taceva, in realtà la violenza poteva essere anche esercitata in maniera più grave proprio per questo isolamento, le donne hanno comunque continuato a chiedere aiuto rivolgendosi alle forze dell'ordine e le forze dell'ordine hanno dato una risposta opportuna, ecco, assolutamente di supporto, lavorando molto in rete con noi. Questo ha fatto sì che, per esempio, le case rifugio, soprattutto le strutture di emergenza, avessero lavorato, hanno lavorato, continuano a lavorare sempre a pieno ritmo. Alcune difficoltà, alcuni centri antiviolenza, alcune case rifugio l'hanno incontrata per il discorso della quarantena, prima di entrare nella casa la donna doveva ovviamente passare un breve periodo, mi pare, di 15 giorni di isolamento per essere sicura di non sviluppare il Covid e di contagiare le altre ospiti della casa, ma c'è stata una moltitudine di soggetti che hanno offerto, per esempio, bed and breakfast, eccetera, posti letto dove far passare questa, diciamo, quarantena alle donne che chiedevano ospitalità in attesa di essere inserite in una struttura, in una casa rifugio.